Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, parliamo di una nuova app stasera, si chiama Help Dandy ed è una sorta di marketplace virtuale, un mercato virtuale, quindi per far incontrare chi ha bisogno di una mano nei lavori di casa e chi invece offre mano d'opera. Attenzione perché non parliamo del solito portale dove uno cerca, che ne so, l'idraulico piuttosto che il giardiniere, ecco. È qualcosa di decisamente più sofisticato, come ci spiega l'ideatore di Help Dandy, Bernardo Zercheni, che sta lanciando proprio in questi giorni l'iniziativa. Buonasera Zercheni. Ciao Maurizio, buonasera. Oh, buonasera, bene, siamo passati al tu. Allora, come funziona questo sistema che intanto, diciamolo, si basa su un sito web ma prevalentemente su un'app? Io direi, restiamo in tema idrico, facciamo l'esempio del tubo che perde. Ho un tubo che perde in casa, perde acqua, ho la tua app installata sullo smartphone, che faccio? Allora Maurizio, se tu hai un rubinetto che perde, semplicemente vai sulla mia applicazione, fai la segnalazione, quindi metti il tuo nome, identifichi qual è il problema, quindi specifichi qual è il problema. Per di più puoi fare addirittura una fotografia per permettere a chi ti deve venire a fare l'intervento di sostanzialmente identificare qual è il problema. A sua volta l'applicazione ti localizza, quindi riesce a identificare anche la posizione esatta dove ti ritrovi, in modo da permettere a chi deve venire a fare l'intervento di individuare dove hai questo problema. Certo, insomma. Certo, non ti arriva un preventivo da un'altra regione, insomma. Esatto. Questo ti permette anche di avere la possibilità chiaramente di risolvere il problema in breve tempo, perché il concetto è quello di chiaramente la segnalazione deve arrivare a qualcuno che sia vicino a casa tua. Dall'altra parte invece c'è l'idraulico, comunque la persona che si è iscritta a questo servizio come fornitore di servizi e non come utente, diciamo. Esatto. E quindi a sua volta questa persona qui riceve la segnalazione, si candida e La candidatura ti arriva in tempo reale. E ti arriva insieme anche un preventivo, che è una cosa molto interessante. Sì, diciamo che chi ha l'esigenza, l'idea è quella di fare arrivare anche più candidature, più risposte, in modo che possa fare una valutazione anche in base al prezzo e al tempo. Ecco, dicevamo, se invece sono un idraulico e voglio iscrivermi, diciamo, a questo servizio, come funziona? Allora, per iscriversi è semplicissimo, basta andare sull'applicazione, scaricarsi la sua applicazione sull'iPhone, perché per ora è disponibile sull'iPhone, o sul sito internet, mettere i propri dati, non ne chiediamo tanti anche perché sappiamo che la gente non ha voglia di perdere ore per iscriversi. E poi identificare la categoria dove vuole candidarsi. D'accordo, dopodiché voi semplicemente appunto mettete a disposizione questo servizio, uno si paga l'applicazione quando se la scarica, poi non ci sono percentuali o cose di questo genere, voi semplicemente mettete in contatto appunto domanda e offerta. Ecco, quali sono le tipologie di lavoro? Finora abbiamo parlato di idraulici, ma parliamo di una, come dire, di una gamma di lavori possibili. Sì, guarda, credo che la categoria che andrà per la maggiore saranno i tipici lavori occasionali, quindi quei lavori dove uno non dovrà essere magari neanche specializzato, o magari uno che sappia fare più tipologie di lavori, lavori di manutenzione e riparazione, lavori domestici. Pulizia, per esempio. Pulizia, esattamente, stiratura, queste cose qui, corsi e ripetizioni. Problemi informatici che ultimamente vanno anche per la maggiore. Certo, io magari ho il computer in casa ma non so bene, ho un problema e non so come risolverlo perché non sono uno smanettone, a quel punto piglio, chiamo e mi arriva lo smanettone a casa. Esatto, questo è il concetto, esattamente. Ecco, forse questo è anche un buon esempio per spiegare cosa c'è di diverso in questa idea di Help Dandy e il motivo anche per cui ne parliamo. Ecco, se uno ci pensa bene, rispetto ai classici sistemi, pagine gialle, pagine bianche, roba di questo genere, per cui io cerco l'idraulico, cerco il serramentista, cerco il bruciatorista, io qui invece dico, ho questo problema, chi me lo vuole risolvere? Diciamo che hai azzeccato proprio il concetto, e Dandy ti dà la possibilità di trovare subito chi ti serve, dove ad oggi hai anche problemi a trovarlo, no? Ti faccio un esempio pratico magari. Devi spostare il divano di casa da un appartamento all'altro, hai bisogno di qualcuno con il furgone, sei in una città dove non conosci nessuno, vai su Help Dandy e lo trovi. Al posto di cercare lì la ditta di traslochi, per spostare un divano basta uno qualunque col furgone, che magari non c'ha niente da fare quel giorno e ti costa un po' meno. Esatto. È un po' questo il concetto, no? Può essere questo, può essere quello di fare le ripetizioni, piuttosto che sei stata male la donna delle pulizie e ti ritrovi in panico a dover mettere a casa perché ti deve arrivare la suocera. Senti, ma io come faccio a essere sicuro però a questo punto che la persona che viene sia capace di fare quel lavoro? Perché probabilmente spostare un divano va bene, ma già un problemino, anche solo il tubo dell'acqua che perde, poi arriva uno che non è capace, mi fa dei danni bestiali. Guarda, io credo che questo sia il problema focale, no? Cioè tranquillizzare l'italiano, che per di più non è neanche tanto abituato a fare queste tipologie di attività. Mezzi informatici. Esatto, questi mezzi informatici. Quindi ad oggi, per creare referenza, noi abbiamo creato un sistema di, ad esempio, TripAdvisor dei lavoratori, lo definiamo noi, no? Quindi dare la possibilità a tutte le persone che prestano lavori di avere una valutazione e delle recensioni, in modo da permettere a chi usufruisce dell'applicazione di tranquillizzarsi. Insomma, il sistema dei feedback, che è un po' tipico di internet, per cui a un certo punto una persona che si trova tante valutazioni positive, uno sa che può fidarsi, no? È un po' questo il tema. Va bene, in bocca al lupo allora per questa avventura. Grazie a Bernardo Zercheni. Grazie a te, Maurizio. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.